Beh, quando il nostro simbolo cittadino, la Torre Garisenda, si è trovata in difficoltà, abbiamo visto la grande onda di affetto che si è sollevata da tutta la città, ma anche ben oltre la città, testimoniando un grande affetto per la nostra Bologna. Addirittura l'ultima donazione arriva dagli Stati Uniti, dal CEO di Google, Eric Schmidt, 1 milione di euro. Non poteva mancare, naturalmente, l'abbraccio e il sostegno di tutti coloro che portano avanti le arti e le culture tradizionali, popolari e dialettali della città. E quindi ci siamo ritrovati tutti insieme, già collaboriamo per fare rassegne estive, ma abbiamo radunato in questo caso speciale davvero tutti i rappresentanti di ogni arte tradizionale bolognese. Quindi avremo per esempio i burattini di Riccardo, avremo gli cantautori in dialetto, le compagnie teatrali dialettali, veramente ci sarà rappresentata anche la Filuzzi, le Zirudelle, ogni forma d'arte teatrale dialettale sarà presente su quel palco per sostenere il nostro simbolo cittadino. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo prima di tutto è unirci a questa grandissima onda di affetto che ci sta veramente commuovendo, perché testimonia un grande attaccamento e un grande riconoscimento alla qualità della nostra città, perché le donazioni arrivano, come dicevo, non soltanto dai cittadini, contralto anche bellissime frasi di affetto, ma anche da chi a Bologna è passato solo per un periodo della sua vita. Noi che la viviamo, noi che ne portiamo avanti le tradizioni e la cultura, non potevamo mancare e vogliamo contribuire, dare il nostro contributo soprattutto morale ma anche concreto con una raccolta fondi. Infatti tutto l'incasso della serata sarà devoluto al fondo per il sostegno e il restauro della Garisenda, però ecco, vogliamo soprattutto dare il segnale che la città abbraccia il nostro simbolo e si mobilita per lui. Quali sono gli ospiti? Allora, avremo veramente tantissimi rappresentanti, come dicevo è rappresentata ogni forma d'arte bolognese. Abbiamo ben 8 compagnie teatrali dialettali: la compagnia Bruno Lanzarini, la compagnia I Multipli, la compagnia Asfacqua al Caspol, abbiamo la compagnia I Amiga di Granarol, abbiamo la compagnia Al Nostar di Alat di Castenaso, la compagnia Rigo Lucchini, i Nuovi Felsini di Castelmaggiore, la compagnia Masetti di Luciana Minghetti, e poi saranno rappresentanti i cantautori tradizionali, dialettali, quindi avremo il duo Deno, Giuliano Gamberini, il One Man Show, e poi avremo Fausto Carpani, Nettuno d'Oro per la città di Bologna. Poi abbiamo la Filuzzi con il famoso Massimo Budriesi, i burattini di Riccardo saranno rappresentati, le Zirudelle, e presenteranno il tutto Silvia Parma e il sottoscritto Marco Piazza in rappresentanza del Lunario Bolognese. Possiamo aspettarci qualche sorpresa? Beh, di sorprese ce ne saranno, anche degli inediti, Zirudelle scritte apposta per la nostra torre, canzoni, quindi sì, ci saranno delle sorprese, oltre che una grande energia e un grande amore per la nostra città, da tutte le sue arti e le sue forme culturali popolari.